443. Passato di patate. Ormai in Italia, se non si parla barbaro, trattandosi specialmente di mode e di cucina, nessuno vi intende. Quindi, per essere capito, bisognerà che io chiami questo piatto di contorno non passato di, ma purée di, o più barbaramente ancora, patate mâché. Patate belle, grosse, farinacee, grammi 500, burro grammi 50, latte buono, panna mezzo bicchiere, sale quanto basta, lessate le patate, sbucciatele e calde bollenti passatele per istaccio, poi mettetele al fuoco in una cazzaruola coi suddetti ingredienti, lavorandole molto col mestolo onde si affinino. Si conosce se le patate son cotte bucandole con uno stecco appuntato che deve passare da parte a parte liberamente.